numero nero e anche giù di morale, quindi poi un po' anche Claudio mi ha spinto a rientrare. E ieri ci siamo fatti una bella chiacchierata fino alle 9, pensa. Poi avevo dietro tua indicazione, avevo provato quell'applicazione Civitalk, è molto interessante, quasi pericolosamente interessante, perché dovunque tu sia, anche al gabinetto puoi modulare, per dire, e secondo me sarà il futuro delle comunicazioni radio, quel tipo di programma, così come Gello e tanti altri. Sì, intanto è presente, al momento sicuramente superiore a tutte le altre tipo di trasmissioni in CB, parlo sempre del livello di CB, perché l'applicazione funziona tutti i giorni, anche alle 2 o 3 di notte, tu la accendi e c'è tanta gente, no? Non ci sono problemi, magari ci saranno camionisti che stanno viaggiando, eccetera, tutto quello che vuoi, ma intanto c'è gente, per dire, no? A me non piace il tuo comportamento, io infatti quando entro, anche ieri sera ci sono entrato, ma proprio ci sono 4-5 persone, perché se incominci ad esserci 30 persone non mi va più. Non mi va più per vari motivi, innanzitutto perché è un che sta ascolto su quello che fa, e se cavolo di svettare il canale, non piglio o niente, sì, può capitare di rimanere anche l'ascolto. Sì, fate anche sentire, no? Non dico tantissimo, ma almeno ogni tanto fa una battuta, invece niente. E il resto che poi si fanno sono sempre le solite persone, 3-4 oggi, per cui, ma no. Si fa pure consigliato di quando siamo noi, i due di Sassari e zona di Sassari, diciamo, zona di limitrofe, di utilizzare il CH, canale 1, per cui no, sarebbe meglio, dai, per conto mio, io lo apprezzo così. No, poi ho sentito un numero perché erano PNR che sono quelli che stanno parlando pure a me, in PNR dicendo fettinate, aprilo un po'. È acceso, vabbè, fettinate, cose loro, perciò un po' mi ho preferito canale a parte. Comunque Giulio, sei proprio a filo di strappamento, dovresti abbassare, troppo così. Aspetta un attimo, vai. Perché per caso ho portato un pennello e l'ho messo regolato così. Ecco, adesso dovrebbe andare bene. Per caso ho portato il pennello, evidentemente si lavora. No, sto guardando la partita, capito? Sto guardando la partita dell'Inter, alla televisione, cioè a tablet, non la televisione, nel tablet, che è abbastanza grande, per cui si può seguire benissimo. Ma è una diretta o una replica? Una diretta, con tablet vedo tutte le partite del mondo, non solo l'Italia, del mondo, tutto, qualsiasi sport, tutti i percettivo, tennis, rugby, tutto, calcio, film, Rai 1, Rai 2, Rai 4, Rai 2, 5, tutti quanti, Sky, tutti i giorni Sky, Dazon, tutti i canali che vuoi vedere ce li hai, sia in italiano che ce l'hai anche in lingua straniera, tedesco, spagnolo, inglese, tutto, su questo sito è fenomenale, va. E si vede anche molto ma molto bene. Io di sport sono un po' carente, proprio, però è interessante sapere che sito è. Se puoi, guarda che WhatsApp l'ho rimesso in piedi, dovresti avere il secondo numero, non ho guardato chi figura ancora, ma mi pare che abbiamo già comunicato tramite WhatsApp da quando l'ho rimesso, avevo cambiato telefono, l'altro ce l'ho ancora, però questo è tutto un altro pianeta, dai. Mi interesserebbe sapere il sito, sicuramente il sito di streaming, che io di solito quello YouTube, cose di o scienza, attualità, un po' di tutto, dai. E così, avevo acceso a vedere se entravano come ieri il gruppetto, forse un po' presto sono, le? Non è tanto presto, sono le 7:20, passate pure. Sì, intanto dimmi se sto ancora trattando. Come Giulio? Dimmi se sto ancora trattando. Diciamo che si sente troppo l'effetto stanza, sarebbe meglio ancora abbassare. Allora io ho rimesso a posto il 3009 omologato, gli ho fatto la saldatura, mi sono dovuto dannare, non c'era spazio per saldare, mi tremavano le mani, non è una questione di vista, proprio mi stavano saltando i nervi, non sono più adatto a fare cose di precisione, piccole saldature, ui. Ok, là. Vabbè, allora l'ho allontanato ancora un po' il microfono, perché il microfono ha regolato il giusto. Sì, tu non lo sapevi, ma questo mi si era messo in fissi, questa radio, e non ha aggiustato Fabrizio in maniera proprio perfetta, veramente. Vabbè, adesso dovrebbe andare bene come modulazione. Sono belli quei siti, io poi vabbè per lo sport te l'ho detto, però l'attualità, quelle cose sono interessanti, anche programmi che parlano di scienza, di ambiente, di natura, quelli sono interessanti. Ok, allora qua io sto sentendo una corrente bruttissima, corrente perché c'ho, ti spiego, ancora non ho fatto il foro nel muro per passare il cavo del ricevitore, l'antenna esterna del ricevitore, e quindi qua dallo spiraglio della finestra chiusa alla bene meglio arriva uno spiffero d'aria, e quindi mi devo prima di tutto coprire, se mi gira mi metto anche la stufa adesso. Poi vediamo se entra qualcuno bene, se no pazienza, casomai ci si sente un altro giorno, dai, tu sei anche seguendo la partita. Sì, vieni, ma non è un problema, tanto la partita che mi interessa è quella che stavo Juventus con Roma, adesso sta giocando Chievo Inter, sta vincendo l'Inter 1-0, ma quella che in realtà mi interessa è quella che stavo facendo un buco, non ci sei ancora riuscito, o meglio non ci hai ancora pensato, o meglio ci hai pensato ma non l'hai mai fatto, e adesso decidi tu da queste tre affermazioni cosa hai pensato veramente. Eia. Mi ha detto anche mia zia che c'ha anche Trapani, punte lunghe, e dice ma perché non facciamo un foro? Proprio per non bucare, no? Tante roba che si usa non si usa, no? E penso è stato quasi due mesi e mezzo fermo, il ricevitore tutto spento, tutto staccato, il baracchino lo stesso. E poi ti dirò che vorrei fare una cosa però. Ti spiego, io avevo messo 10 metri di H155, no? Tanto che arrivasse alla parte destra del divano, quello verso la finestra, no? Però siccome la stazioncina, chiamiamola così, è stata spostata sul lato sinistro del divano, il cavo non ci arrivava, ho dovuto mettere una prolunghetta di 5 metri di RG213, ma scusa, RG58, volgare, quello sottile, mettendo un barilotto, non la doppia femmina, però darà un po' di perdita. Io, quando deciderò di fare il buco, prenderò direttamente il cavo intero, cioè 20 metri, no, 15 metri di, voglio un cavo unico, non voglio spezzoni, perché sai, quelle frequenze sono delicate, anche ricezione ti dà un po' di perdita, lo spinotto, il doppio spinotto, il barilotto, quando poi lo deciderò già, farò un cavo unico, dai. Bene, adesso se riesco a chiudere bene la finestra, fa corrente col bagno, ecco. Poi, vabbè, PMR, se non sono più entrato nemmeno, e ho avuto alti e bassi, molti bassi, molto, molto bassi. Adesso un po' mi sono ripreso, eh? Così è la vita, una tribolazione. Hanno ragione gli indù, o chi è che lo dice? C'è una religione che dice che la vita è sofferenza, la morte è la non sofferenza, capito? vabbè, quello va la testa in quel modo, ma io dico che la vita è anche goduria per chi se la vuole, perché anche se uno se la vuole in maniera povera, non è detto che uno debba essere un benestante o addirittura amico per godersi la vita. Godere ugualmente, a modo suo ognuno si deve godere la vita che gli riserva e che gli compete, per cui i problemi non essere sopra. Io questo discorso l'ho sempre fatto, mi ricordo da giovanotto, quando si usciva in Lepa con tutti gli amici, sai, allora si andava in giro tutti con le moto, eccetera, 7-8 moto, tutti i magari sempre con passeggero dietro e lui, no? Andavo anche nei paesi eccetera, e a volte capitava che c'era un'altra persone era giunta alla testa, che magari non mi andava, non mi piaceva, allora io non è che facevo polemiche, non me ne fregava niente di fare polemiche, assolutamente no, però mi allontanavo io e non mi facevo valere, ecco, con la greppa, e me ne andavo per conto mio, me ne andavo per conto mio e ci stavo bene lo stesso, per dirti, no, i modi di vivere sono tantissimi, per cui non credo che uno debba proprio lamentarsi nella maniera più assoluta. Gli amici venivano a cercarmi loro, ma come mai non si è visto domenica, ad esempio, siamo andati qua, siamo andati là, eccetera, eccetera. Fatto, ma non sono venuto perché ci sono delle persone, una persona che non mi dava e non ci sono venuto per quello. Loro poi quando constatavano chi era l'elemento, che io capivo subito dal primo approccio con questa persona, capivo subito che non era l'elemento che dovrebbe far parte di quella greppa, quando si rendevano conto del fatto, allora lo mandavano via, per dire, no? E io ritornavo, per dirci com'è la questione, come vedi uno può vivere a modo suo e stare bene ugualmente, o manca. Buonasera. Vabbè, Filisteo. Vabbè, mi adesso sto entrando io, non c'è già adesso. Adesso, non c'ero, sono fuori, l'ho detto ieri. Vabbè, Marco, giù. Infatti stavo guardando, stavo chiamando poc'anzi, l'ho risposto, e stavo guardando la partita dell'Inter, che tra l'altro sta vincendo 1-0, sta vincendo. E poi si è affacciato Marco, e allora subito io sono entrato, ed eccoci qua. Tutto bene, no, stavamo discutendo queste cose qua, un pochino consideriamo le serie ma anche superficiali tutto sommato, perché ripeto Marco, se uno vuole farsi la vita per conto proprio, vuol dire che gli sta bene così e significa che è soddisfatto di come si presenta e di come si comporta, per cui non capisco cosa c'è tanto da chiedere. È la persona stessa che deve scegliere il suo modo di vivere. Ci sono quelli che vivono nei nemici, addirittura che non vedono solo animali, ma forse neanche animali. Eppure perché ci vanno? Perché vuol dire che stanno meglio con se stessi. Ecco qual è la situazione, Marco. Comunque non è questione di soldi, anche perché io anche quando avevo soldi in tasca non è che, cioè, ti danno l'illusione della felicità i soldi, ma poi a meno che non siano davvero tanti, ma tanti, è così, da. Bene, nel frattempo che voi parlate io cerco di eliminare questa corrente perché mamma mia è pungente, poi mi metto una bella felpa e vi dirò, cambio apparato perché sono fermi da mesi e hanno bisogno di girare, se no si guastano, e cambio apparato anche, ci sentiamo fra poco, ok? Ok Marco, d'accordo, siamo qua, sì, vabbè, e si guastano, non devi essendo alimentati a 12 volte, no? Non è tutto così, ma tu vabbè, fammi girare già al video, comunque andate a toccare, allora tutto ok ero fuori Sassari, sono andato a prendere materiale, roba, sono entrati poco fa e sono qui tra comuni tutta lì, guidendo Roma Tesh, era Olbia, va bene, e Giulia, avrei duri di là, soldi vanno e vengono, sarà diventato macco, poi di là, aspetta che non devo spendere per stare via, non mettere sotto il mattone, se ci sono bisogna spenderli, se no poi si buttineggiano, vero Mastro Giù? Già non credo, no, i soldi si mettono sotto il mattone se avanzano da quello che è, appunto serve per la vita decorosa, non da multivitamino, decorosa, nella maniera migliore possibile, se così, fuori. Però non mi faccio mancare niente, sono posso garantire. No, non sto via. Soprattutto nel mangiare, no. Però non guarda bene, per cui che problemi ci sono. Poi, cosa ti ammazza? Come sempre. Poi ci stavo dicendo anche l'altro giorno, mi metto in saccuccia. Dunque, sono ben costruito perché sono in banca, per cui. Devo dire che è anche una bella cifretta, importantissima lì. Però vabbè, è solo tutto del lavoro che facevo, non è certamente tutto di della pensione. Dalla pensione sì, qualche cosa ogni tanto già si aggiunge, ogni tanto, non diciamo che tutti i mesi già si aggiunge qualcosa. E rimane lì, poi è chiaro che non è che li posso buttare o li voglio sprecare, no. Non si spreca niente, perché poi quando servono bisogna sapere andare a prenderli. Non sono a Olbia, ero vicino a prendere materiale, che c'erano dei materiali abbastanza interessanti in offerta, che servono per la campagna. Abbiamo pranzato lì, abbiamo trascorso una bella giornata, siamo andati a pranzo. Poi siamo andati a trovare alcuni amici di Olbia, diciamo, ho passato una giornata diversa, ma sono di Cracobaro, sono stanco. E lì mi proprio durante l'ora di pranzo, perché poi siamo andati a trovare questi amici, siamo pariti che erano le 5 qualcosa, e ho visto che il Cagliari ha perso con la Lazio 3-1. Ci picchia, pazienza. Con l'Inter non ho neanche né sentita né vista né niente. Sto aspettando Juventus e Roma, infatti fra un po' mi metto in tutta perché siamo ancora cambiato, ma devo pure volte, tutto, mi metto in tutta, poi metto fino le scarpe a tennis, alle 7:30 porto il cane e mi siedo un po' nel divano. A vedermi la partita, tanto mia figlia è tra mezzanotte e oggi esce alle 6 domani mattina, è di notturno e quindi ce la guardiamo assieme. Stavo decidendo la verità di andare da lei a cena, appunto da lei a Monserrato, io con mia moglie e lei cenare, poi lei prende servizio, quando finisce la partita io mi sono rientrato a casa, ma sono troppo stanco. Già pranzato fuori, andare adesso a ricenare fuori, mangiare una pizza, qualcosa, a giocare, non voglio stare a casa. Ok, beh, se sei stanco, se non hai voglia, se ti fa bene a casa, al caldo, eccetera. Sì, quello sì. È una cosa normalissima, certo. Sì, no, stavo guardando la partita perché non c'era nessuno, è per questo, per cui. Sta vincendo l'Inter, il primo tempo appena finita, pensiamo che sta per iniziare il secondo, dai, vediamo se è iniziato, no, ancora no, ancora non è iniziato, fa un po', inizia, per cui, vabbè, va benissimo, e vabbè, dice che c'è il posto, ma anche il Milan ha perso, già lo sai, il Milan ha perso, Chiesa oggi li ha castigati, la Fiorentina è riuscita a battere il Milan, fuori casa e la Fiorentina, per cui va bene così. Mi sembra che sia in funzione anche, tra l'altro, se ricordo bene, adesso non me lo ricordo bene, già ho visto filmato, perché ho visto tutto su Sky, tutti i filmati, tutti. Però non mi ricordo se sia in funzione o forse subito dopo la battuta si è trovato lì, non me lo ricordo, la verità. Quindi oggi ha giocato a mezzogiorno e mezza Lazio-Cagliari, poi alle 6 ha giocato l'Inter o il Milan, non ho capito, perché alle 8 e mezza poi c'è la Juventus. No, il Milan ha giocato alle 3, adesso sta giocando l'Inter, adesso ancora no, secondo tempo sta per iniziare, sta tutto per iniziare dopo il secondo tempo, adesso ci sono tutti i vari filmati su Sky che danno sempre quando c'è l'intervallo, ancora non è iniziato il secondo tempo, sta giocando Kievo Inter 0-1 al momento, poi si sa, l'Inter più forte, già lo sappiamo. E vabbè, poi no, perché la Juve lo cambia, certo. Quella è l'ultima partita, anche il Napoli ha vinto. Si sa, il Napoli è forte, è il mondo da qua. Oh, ha vinto 1-0, non è che ha fatto grandi faville, comunque 1-0, sono sufficienti per i tre punti. Sì, 1-0, Burassavo ci ha vinto 1-0 con Ugaglia di Guruba, no? All'ultimo minuto, se no la partita 0-0. 1-0, 1-0, la Juve deve rispondere, poi gli altri sono noia, Inter, Milan, cosa, sono noia, sono troppo distanti, però il Napoli è lì, il Napoli ci mette poco a recuperare, un paio di passi facili della Juve, si avvicina ed è sempre pericolosa, perché il Napoli è forte, si sa, no, non ci sono dubbi su questo, vabbè. KK, oh e Pippo, Filippo mi ha visto, invece era dentro. E vabbè. Vediamo un po' se è rientrato Marco. K, questo è l'altro apparato, è quello che avevi anche tu Claudio. Con la barra LED per lo Schmitzer HR5005. Che è inutile sta roba, prima non si vende, bisogna farla funzionare se no si inchioda. Tutto bene la modulazione? È favolosa, 5 perfetta, il segnale è anche più alto, evidentemente c'è qualche watt in più, non lo so. Ottima, ottima. Ok, dai, fatemi mettere la tuta, la ginnastica, perché ho goduto, mi voglio un po' togliere la roba. Ok, Giulio, riprendi, già sono qua, riprendi con Marco. Ok, qua. Sì, Marco, va benissimo, la radio va benissimo. È anche leggermente più qualcosa, ma andava benissimo anche l'altro. Però non è come stai dicendo, che si combina se... E quando sono quelli alimentati a 12 volt, con l'alimentatore così, non si dominano le apparecchiature. Si dominano quando ci sono quelle apparecchiature, qualsiasi tipo di apparecchiatura, alimentata a 220 volt. Perché? Perché in ingresso ci sono i condensatori, ci sono i filtri di rete, ci sono praticamente, e quelli sono elettrolitici grandi, quelli si possono attaccare. Gli elettrolitici da 12 volt non si staccheranno mai, nemmeno se arrivassi 20 anni ferme. Io tutti quelli che ho sono tutti a 12 volt, tranquillo, ci sono problemi, l'attacco una volta ogni volta di Papa, non succede niente. E così ho, ma non posso garantire che è così. Mentre invece le apparecchiature, ma qualsiasi tipo di apparecchiatura, che ha il condensatore, così, un compressore che è un compressore, ad esempio, lo stesso discorso, perché c'è, fanno il compressore a 220 volt, naturalmente, non a 380, 380 è tutto diverso. Quando c'è il condensatore, che è un condensatore da 500 volt, quando si può spaccare, ma quando c'è i condensatori che sono 30-40 volt, quelli non si spaccheranno mai. Eia. Stavo notando, aspetta, 2, 4, ma mi sembrava di vedere un consumo un po' più, vabbè, se ci avrà 10 watt, ma sono pochi 10 watt, ah no, in realtà sono 12 watt, il filtro anti-TVI me ne mangia 2, saranno 10 watt puliti, almeno qui. Notavo un consumo di 5 ampere, quasi 5 e mezzo, mi sembra un po' troppo però per così pochi watt. No, se sono 10 ampere ci vogliono fra i 4 e i 5, se sono 10 watt fra i 4 e i 5 ampere, certo, se non basterebbero 3 ampere, perché che sarebbero proprio al massimo, alla, proprio al limite massimo della, della sopportazione per il detentore. Ma per 10 watt ci vogliono 4-5 ampere, e se no non avresti birra sufficiente per farlo funzionare. O, ma, se poi la parte lo fa funzionare a 5 watt, allora il discorso è diverso, allora se vanno benissimo anche 3 ampere. Sì, infatti, adesso io stavo pensando all'altro, 3009, sai, non ha tutto il display illuminato, poi c'ha 4 watt massimi in AM, quindi è così, quello proprio 3 ampere d'avanzo mi al massimo consuma. Va bene. Naturalmente ho messo lo stesso microfono del 3009. Per la modulazione conta che quello è omologato, cioè c'ha la M, la modulazione è limitata, questo ce l'ha tutta aperta perché c'ha qualche canale in più, c'ha qualche watt in più, tutto in più c'ha. E appunto, dunque, è tirato il fatto che assorba di più, beh, è ovvio, assorba di più, certo, ma è così. Io ad esempio, se faccio funzionare questo a una tensione più bassa, deve funzionare a 13,8, deve funzionare, no? Se io lo batto, per dire, lo faccio funzionare a 12 volt, funziona lo stesso, però quando scendi la portante, si abbassano tutti le lucette, no? Con la nanometer, con il frequentimeter e così via. Perché? Perché non c'è l'amperaggio sufficiente. Ripeto, funziona lo stesso. Si sa, scatta l'alimentazione, l'apparaggio perlomeno, non l'alimentazione. La tensione può anche andare a 12 volte, però se non c'è l'apparaggio, se non c'è tensione sufficiente, non è chiaro che le lampadine, quando schiacci la portante, si affrusciano. Ahia. Io naturalmente l'ho messo un po', ecco qua, ma è sta alimentatore, però non si risolve questa ventola alla fine, che seccatura, mi devo beccare, poi risuona con questo comodino in legno, questa specie di mobiletto, mi senti? Per andare a recuperare una ventola uguale, perché magari uguale non la trovi, delle dimensioni, uffa. Però ha di buono questo alimentatore switching. Gli ampere poi chiesti sono pochi, non scalda mai, perché non scalda, potrebbe anche non avere ventola per il normale uso, baracchini normali o anche qualche lineareto, l'accento non scalda. Non scalda proprio, rimane sempre freddo, anche in estate, a meno che non gli applichi un carico forte, questo è da 30 ampere di picco, allora potrebbe scaldare, ma chi ci arriva a consumare 30 ampere? Caspita, non capiterà mai. Claudio, ci sei? Ma si è allontanato, che era un attimo... No, è andato a cambiare, a mettersi in tenuta sportiva. Sì, lo so, anche il mio è così, sì, anche a me devo dire che mi dà un po' di fastidio questa ventola così. E inizialmente magari per i primi 5 minuti non si attacca, non parte la ventola, ma dopo un po' parte subito, no? Per cui rimane sempre il movimento continuo, per cui non è che mi piace. Sai cos'è? Sono alimentazioni da 30, 40, 50 euro, dunque non è che si possa pretendere più di tanto. Vanno benissimo, però ti devi mettere lontano dal microfono, perché se tu hai un microfono sensibile si sente sempre, per cui anche io ce l'ho così, da 30 ampere. Non so se è di picco, se sono continui, se solo che ad esempio questa radio che sto usando adesso, magari insomma questo io 15 ampere o addirittura 20, adesso non ho guardato lo strumento, ma grosso modo è così, per questa radio ci vuole quello, se no non ce la fa, non c'è solo un alimentatore a 10 ampere, non servirebbe a niente per questo. L'ideale sarebbe l'alimentatore, quello deve spendere 150 euro come minimo e anche di più per avere l'alimentatore tradizionale e allo stesso tempo qual è il vantaggio di questi? Io ce l'ho un altro alimentatore, ma sai qual è il vantaggio? Quello dei switching, che nei switching non c'è nessun volt di corrente alternata, mentre invece nell'altro alimentatore, in quello tradizionale, 1-2 volt di alternata c'è, il che significa che quando molti sono da portante sente di rosio, e questa è la differenza umana. Certo, c'è bello magari schermato, per esempio quello da GBC da quanti ampere ha? 5, pur non ho capito se siano 5 effettivi, 5 di picco. Non da Rongin in trasmissione, per fortuna. L'alternata è una delle cose più scoccianti, perché sai che l'emissione non è pulita. Ho visto in piazza già dall'altro giorno, che sono andato in banca, tutto stand di panini, c'era un profumo di carne arrosto, mamma mia, da svenire. E stavo vedendo un sacco di gente che scendeva in Viale Trento al centro, c'è un po' di musichetta, c'è un mini palco per musica, insomma vanno a mangiare e ascoltare musica. Per Dio, potrei farlo anch'io, ma cioè, alla fine. Poi si è notato, per Capodanno a Sassari non c'è nessuna attività, non sono arrivate proposte, quindi niente feste in piazza, sai. Sì, beh sì, in effetti, ma so, non sono arrivate proposte perché evidentemente questi artisti che vengono fuori vogliono un sacco di soldi. Tu pensa che il comune a disposizione aveva preventivato 47.000 euro a disposizione, o 45.000, non ricordo bene, forse 45.000 a disposizione proprio per qualcuno che si presentasse, ma ormai c'è un po' tempo, fino al giorno 19 non si è presentato nessuno che ha chiesto appunto di venire. Sarà per quello, vogliono più soldi. Ma io dico solo una cosa, ma ti sembra che si possono spendere 50.000 euro, gratta, per un cantante che viene da fuori, magari un asino, quando noi qui in Sardegna ce ne abbiamo dei gruppi, perché questi soldi non fanno rimanere in Sardegna e dargli a questa gente che fa musica qui in Sardegna stesso? Non c'è bisogno di far venire gente da fuori che sono anche degli scusi, degli scrocconi che non finiscono mai, ma quando mai uno non bastano 45.000 euro per farti uno spettacolo di un paio d'ore, una vergogna, dai. Io mi ricordo che un anno era venuto questo tale Vinicio Capossela, peraltro non l'avevo mai sentito, faceva canzonette così, fesserie, mi brutto, ma fatto detto, chi è questo? Da Danny Reciddu, boh, posso capire, è un grande nome della musica italiana, ma poi avrà i suoi accoliti, gente che lo conosce, ma eravamo scesi con mio zio lì quando suonava in piazza, ma ha detto cos'è questo schifo di musica un po' e vabbè, poi questo Natale dei parenti, purtroppo c'è stata questa pace, questa tregua, dai, a Malagana, sorrisi forzati. Meno male che è solo un giorno all'anno, due massimo, ci si sopporta a vicenda e così passa il Natale. No, non è che siano così tesi i rapporti, però prima non ci interessava avere a che fare, adesso diciamo è stata chiesta questa tregua di dimenticare lo sgarbi del passato, no? Vabbè. D'altronde nonno avrebbe voluto così, nonostante tutto quello che ha passato. Ecco. eccomi qua di nuovo, eh. Altri 10 minuti, raga, e poi io vi lascio perché mi porto il sistema organico, non ci sono tutto il giorno, e poi vado a cenare. KK, avanti giù. Ok. Sì, ma sai cosa ti dico, Marco? Indipendentemente dalle controversie che ci possono essere state magari in passato, con, soprattutto col parente, eccetera, secondo me è giusto dimenticare, perché non è possibile, ma non solo col parente, anche con amici, eccetera, l'unica soluzione è dimenticare, bisogna saper perdonare anche le persone, perché gli errori si sa, li fanno un po' tutti, per cui è meglio vivere nel questo vivere, non puoi stare lì quando incontri una persona così a guardare di traverso, proprio perché magari ha fatto uno sgambo in passato. Se poi è un delinquente, allora è chiaro, quando va allontanato non se ne parla più, quello è meglio che non esista più. Però se ci sono delle controversie, diciamo così, riparabili, è meglio perdonare. Io ritengo che quando uno perdona per certe cose, significa essere anche intelligente. Io la penso così, non è il caso, dai, non può stare una vita intera uno così, vedendo una persona e guardando in una maniera un po' di traverso, no, vabbè. Bisogna saper perdonare, dai, quello è necessario nella vita, secondo me è importante anche. Sì. E poi è sempre la solita apparenza acquisita, no? Di cui parliamo. La moglie di mio zio. E certo, se uno di odio uno non può vivere, alla fine. Poi io, mamma era un po' così, ce la va perché fare cose, insomma, non ne parliamo qua, però alla fine pazienza. Si perdona tutto? Sì, quello che si può perdonare, sono cose gravi, si sorvola, dice quello, per quieto vivere, ma non è, si può perdonare tutto. Vabbè, raga, io mi gioco brutalmente, vado a chiamarmi il cane, perdonatemi per stasera, sono stato a salutarvi, ma non ce la faccio a stare seduto qua. Adesso a prendere un po' d'aria, 5 minuti, io vado a 150 km, andare a 150 a tornare, quindi sono stanco. Ci sentiamo domani con più tranquillità, vado a portare il cane e poi mi siedo un po' a vedere la TV. Ciao Giulio, ciao Marco, a domani, dai. Perdonatemi, ma ci ho provato ma non ce la faccio, bisogna riuscire a prendere un po' d'aria, se no mi trommo, devo anche cenare, che abbiamo mangiato a pranzo presto, una cosa veloce, poi siamo rimessi in macchina, e poi insomma, a destra e a sinistra, fare visite, dare auguri, a fare auguri, siamo partiti anche troppo tardi. Ciao, a domani, Giulio, cambio a te, ascolto il finale e poi spiego tutto, dai. Ciao ragazzi, a domani. Ok, ciao qua. Va bene, vai, riposati. Se sei stanco non deve stare lì a continuare a attaccarsi, no, va bene, dai, meglio riposarsi. Il sacrificio si fa in altri momenti, quando si è più pesante nella vita, non si può dopo una giornata di fatica, perché viaggiare significa anche fatica, stare lì appunto a insistere per la radio. La radio già ci accettiamo anche domani con grande piacere, ciao qua, buonanotte, buon riposo tra l'altro e buona cena per la Fanaia, ci sentiamo le prossime, dai, a domani, avanti Marco. Ciao Claudio, cena, poi vattene bello, riposati, spaparanzati davanti alla TV e addormentati anche, come ho fatto l'altra sera. E sentiamo anche domani, tanto adesso mi prendo il ritmo, se no, caspita, non vale nemmeno pagare 12 euro se non si usa il baracchino. io chiedo a noi. Ok, dai, alle prossime. Ciao, grazie. No, oggi ci sentiamo domani, con più calma, tanto domani sono a casa, no? Non vado da nessuna parte. Ok? Se ci vuole campagna domani mattina e poi rientriamo a casa. Ciao, ciao, grazie, buon proseguo a tutti e due, riprendi giù. Ok, ciao di nuovo qua. A domani. Là. Va bene, comunque lì c'è ancora una zero, sta dicendo ancora una zero. Speriamo che pari il tempo, ma comunque. Famiglia, modo di fare, vabbè, niente di che non sia perdonabile, niente di così grave, certo, però sempre voglio sottolineare che è stata mia zia, la sorella di mamma, a cercare di pacificare, se no noi continuavamo per la nostra strada, ognuno per sé, ma siamo talmente quattro gatti in famiglia. Tanto mio cugino è fuori, c'ha la moglie fuori, il lavoro fuori, non credo che rientrerà nemmeno. Va bene, ma oggi poca gente comunque, ieri c'era, chi c'era? Anche Antonello Pomponi è entrato, Franco Di Sorso, Claudio, chi altri? Ma più che altro noi eravamo, dai. Ok, ho capito, sì. Ieri sera ero fuori per le spese, eccetera, spese di Natale, per cui sono entrato un po' tardi e non ho, poi quando sono rientrato non c'era nessuno, per cui allora ho acceso l'applicazione Nido, l'ho acceso e ho cambiato quanto chiacchiere lì, ma niente di più, una decina di minuti, niente di più. Mi è capitata una bella cosa, dai, c'era un certo Diego, sul mio dialogo e io non interferisco sul suo. stessa televisione, lo stesso programma, o perlomeno se pure io voglio andare a Baracchino, allora salgo su, perché è vero la stazione ce l'ho su, per cui non ci sono problemi nella potenza svezza. Allora io l'applicazione da quel giorno ho detto che non l'avrei messa, però mi hai incuriosito. Io in realtà l'avevo messa solo per lavorare in locale, cioè con i soliti conosciuti, e vedo che tutti ce l'hanno l'applicazione, se vuoi lei a vedere la rubrica, ma tutti sono in rosso, cioè nessuno mai lo lascia in monitor o c'è un canale di ritrovo. D'altronde sui canali nazionali a me non piace entrare, primo perché gente già fiatata che si conosce da mesi e mesi, praticamente se ti rilanciano sui canali molto nutriti, ti rilanciano una volta, poi non ti rilanciano più, ci sono bisticci, sovente ci sono bisticci perché li ho sentiti, si scornano come ai tempi negli anni 80 quando è entrato al baracchino, poi nei tanto entrano questi ragazzetti napoletani ubriachi o anche non ubriachi a insultare, a parolaccione anche le donne, capito? Purtroppo lì non ci sono canali privati, lì li puoi mettere in blacklist, però ogni tanto rovinano le ruote, insomma una sera sì, una no, sui canali molto numerosi sento malumori, bisticcie, non mi piace, l'ho preso per il locale. Poi attualmente l'unico che come alternativa per modulare è solo Natalino, lui non c'ha baracchino omologato, non vuole usare il PMR, quindi è isolato proprio dalla frequenza. L'unico modo per modulare era quel sistema, solo che anche a me piace entrare dove ci sono più persone, non solo con una... Non so che dire. Ok, sì, diciamo che dottor Natalino, ma l'avevo telefonato a Natalino, lo stesso, un giorno che ho telefonato a te, pure telefonato a Natalino, e gli ho detto di questa applicazione, ma detto, no, ce l'ho già io, dice, questa applicazione ce l'ho già da un po' di tempo, però dice non lo so usarlo. E allora se credi, gli ho detto, noi quando ci siamo controlla sul canale 1, canale 1, no? Perché si è deciso 43 che quando ci dobbiamo sentire lì nell'applicazione passare lì per canalizzato, nella modalità canalizzata, per cui va bene così, non ci sono dubbi che va meglio, perché rimanere lì nel gruppo può essere bello a chi piace, ma non mi attira molto, infatti io cerco sempre il dialogo dove ci sono 4-5 persone, ma dove ci sono 30 persone non mi va, o 40 o 50, o 125 come ce n'era una volta, un giorno c'era 125 persone sullo stesso canale, perché c'è stato un deficiente che ha fatto finta di fare un funerale in diretta, ha fatto finta e tutti quanti, sai, curiositi e all'ascolto lì, e c'erano 125 persone, tu ti puoi immaginare, Marco, che data di mentalità può avere la gente ad assemblarsi tutti quanti in un unico canale, non va bene, assolutamente, non mi piace così, ripeto. Ma poi ho notato che quando ci sono bisticci mollano gli altri canali, vanno tutti lì ad ascoltare, vabbè, come le 27 mi che ci davo il bando, mi ha bulotto sul 5, allora tutti ad ascoltare. sì, c'è questo fatto della blacklist, cioè credo che si possa silenziare un utente che disturba, però non ho capito se può comunque interferire. Non senti la voce, ma non so se può premere alla portante e interferire, quello non ho mai capito. E infatti qualcuno, proprio per un bisticcio avuto, dice, guarda, dice, molto meglio Gello, ti puoi creare un canale privato con password dove nessuno può entrare, tranne chi ha la password, proprio completamente privato. E stavano pensando alcuni utenti di ritornare proprio a Gello e farsi il canale privato, però poi è sempre la solita cerchia nel canale privato, non entra nessuno di nuovo. Ma molti credo che abbiano interesse a avere il canale privato, anche con questi sistemi online, lo sai. Non vogliono intrusi, capito? Vogliono canale per loro. Un po' simile alla 27 anche, no? Sì, soprattutto con la versione 100 km. L'altro giorno c'era dalla gente, appunto, che stavo parlando anch'io con loro, ma dopo che io ho chiuso, loro si sono spostati perché proviamo, dice, la versione di distanza di 100 km, vediamo un po', se ce ne sono passati lì, ma io, essendo più lontano, io sono passato dove avevano detto loro, però io non li potevo sentire, invece considerato che erano più di 100 km, loro erano dal Bresciano, si può immaginare, erano vicini e si potevano sentire senza dubbio, ma io qua non li potevo sentire, perché loro erano nel Bresciano praticamente, dove la Lombardia, eccetera. Di conseguenza la distanza tra loro era addirittura inferiore ai 100 km, ma se la rivolgeva a me non erano certamente 100 km, erano state 400-500 km, per dire, no? Per cui non ci arrivavano su quella modalità. Però ieri sul canale 45, perché adesso da quando hanno fatto questa versione 100 km, hanno aggiunto 5 canali, prima erano 15, adesso sono 20, e c'è il canale 45. E io ho chiamato lì e mi ha risposto questo barappa, o come si chiama, un camionista, e lo sentivo molto bene, la verità, non c'era problema. Però ho visto che anche in Sardegna alcuni ce ne sono, ce ne sono, solo che sai, è sempre quello il discorso, vai tu e incontra il momento giusto quando ci sono gli altri in Sardegna, anche nella zona di Oristano, Cagliari, e anche più vicino, ci sono persone che chiamano questa applicazione. Io ho sentito spesso a Franco di Sosso, questo sì, con Luca, ci siamo sentiti, Luca del Monte, questo sì, questa gente così, sì, e qualche altro, Graziano, ad esempio, eccetera. Ma quelli lontano, dietro, quando da Cagliari ci ho parlato con quel portatore, quello sì, un certo generale lì, mi fa chiamare questo il portatore, e questi sì, ma niente di più, non c'è attività qua, dai, pochissima attività, o Marco. Allora, io le prime volte che l'ho installata, forse la prima volta che l'ho installata, ho sentito sull'1 di mattina Bombolo e il fratello, credo che sia Giampaolo, però ho il dubbio che lo usino per lavoro, e lì ho così due paroline, poi però ho chiuso, non so se lo usino per lavoro, per le bombole, insomma, non ho voluto monopolizzare, salutato, eccetera. Ho sentito Vittorio Volpe un giorno fa, se all'ascolto la saluto, che ha notato che il baracchino era deserto giorni fa, cioè 10 era vuotissimo, sul 23 non c'era nessuno perché erano sempre in PMR, e quindi dice, ma come mai non c'è più nessuno, non sento più nessuno. Poi vabbè, un giorno eravamo con Pomponio, con Natalina, modulare sul 14, non sapevo che era stato istituito l'1 comunque, noi abbiamo scelto un canale a caso, sai, Pomponio era solito stare sul 14, eravamo andati lì, ma poi canali sono 40, ce n'è d'avanzo lì. E poi mi pare, vabbè, Gianni 959 da dove? Da Schilivani, può essere, però solo ciao ciao, ma niente di che, gente che non conosco. Oh, forse per me per uso locale la stringerei a 5-10 km Milgros Quelce, in modo che sia la cerchia di persone conosciute entro Sassari e anche dintorni, certo. Sassari, Porto Torres, vabbè, non c'è più nessuno, sono tutti spariti i vecchi di... Non c'è più Sando, D'Alghero, non entra né più Valerio, nemmeno. Boh, proprio, vabbè, la gente c'ha altri problemi, mi Giulio, in poche parole. C'ha altri problemi, altro che baracchino, e altro che applicazione, è sempre la stessa cosa. Di comodo, l'applicazione anche io posso modulare anche dalla camera mia, bello traiato a letto, senza venire qui in questa camera che è un po' più fredda, un po' più esposta, capito? Però vedo che non entra mai nessuno, tutti in rosso sono, quindi ho detto penso che la disinstallerò pure se non c'è traffico in locale, ripeto, in locale. Proprio i canali nazionali, come non mi piacevano in Zello, non mi piace nemmeno, non mi piacciono i canali nazionali di là. Poi certi hanno modo di fare, certi del sud, caso strano, sempre quelli del sud, dice qua noi parliamo di queste cose, se non ti va bene te ne vai, proprio detto così a uno, no? In modo anche abbastanza sbruffone, sfrontato mi è stato il tipo. Come sento queste cose? Proprio va bene. Sembra la 27 degli anni 80 quando era entrato, no? Con gentaccia da una parte, gelosie, bisticci, portanti, eccetera, eccetera. Beh, indubbiamente più gente c'è e più maleducazione esiste, e non ci sono dubbi, perché lo sappiamo, queste persone, si sa, sono capponi e basta, uno non può andare a dire se non si piace se ne vai. Di comportarsi radio questo, perché di venire qui di radio si tratta, anche se è al telefono. No, io la verità, anche ieri, sono entrato proprio in una ruota dove c'erano ex CB, gente di una certa età anche tra l'altro. Certo, se poi entri dove ci sono i ragazzini, tipo quella Pippi ad esempio, o quell'altra, aspetta, dove è quell'altra, dalla Puglia, no, napoletana, che sono una specie di matrati, che sono, secondo me, per come fanno, per carità, fanno schifo, fanno, non va bene, non mi piace così, ecco. Io mi fermo se sento qualcuno, prima faccio ascolto e dopodiché mi rendo conto se vale la pena entrare o meno. Diversamente non mi butto una gamba tesa così proprio per parlare con loro. Prima faccio 5 minuti di ascolto e vedo un po' le persone che ci sono e poi se è il caso posso anche entrare un attimo. Però ripeto, non mi attira, non è il baracchino, ecco, per me il baracchino è tutto un altro discorso, tutta una minestra completamente differente, molto più soddisfacente. Quello è come parlare al telefono, tu prendi, fai un numero a caso e poi sei in America e ci stai parlando, non c'è nessuna soddisfazione, Marco, assolutamente. Eia, però appunto i nuovi entrati, cioè se c'è gente a costo di essere ripetitivo, perché l'ho detto già varie volte agli altri, anche quando entra, cioè non ha più voglia la gente di stare a piazzare cavi, antenne, a giù farci il condominio, tra le stazionarie, si mette l'applicazione e parla, alla fine col minimo sforzo arrivano al fine, allo stesso fine nostro, parlare, comunicare con altre persone. Noi siamo dinosauri, in realtà, dinosauri, perché proprio la radio CB, G, già mesi fa quando uscivo, che avevo l'antenna del baracchino sopra, la gente quando vedeva questa antenna guardava in modo strano, sembrava che avessero visto l'alieno. Era tu, però ripeto, parlare così io non ti prendo nessunissima soddisfazione, se non parlare magari fra di noi, ma ripeto, sempre sono canalizzato, allora è diverso il discorso, è come se fossimo al baracchino normale, così è diverso, allora così mi va anche bene, ma parlare ripeto nella modalità gruppo non mi convince più di tanto. Tanta gente al telefonino, diciamo tutti ce l'hanno, anche i bambini, per cui ognuno di loro si può attaccare, si può fare scaricare l'applicazione. Però devo dire che nonostante il grande afflusso di telefonini che ci sono in giro, devo dire che come il numero di partecipanti a QSO tipo Baracchino, secondo me sono molto pochi. Ripeto, non mi piace l'apparamento, però come numero di persone, perché io vedo che sono sempre le solite persone, di nuovo, e difficilmente le vedo, perché io quando attacco l'applicazione, guardo anche la rubrica, vedere chi c'è, e leggo tutti i nomi, tutti i nominativi, in linea di massima sono sempre le stesse persone, perché significa che non c'è questo grande incremento di persone, nonostante che tutti hanno ormai il telefonino. Ma... Diciamo che rispetto a tanti anni fa, quando c'era MSN Messenger, magari ce n'erano meno di chat, di social network, la gente si distribuisce, ma sono io questo? Sì, hola, ah ecco, volevo vedere se funzionava, oh, non ho capito qual era la ripetizione, oh, 1, 2, 3, ok, funziona, lo posso anche spegnere, ecco qua, dicevo, in realtà non c'è solo Facebook, Twitter, ci sono una marea di chat, c'era quella Google Plus, Snapchat, ce ne sono 10.000, quindi tutta la popolazione italiana, parliamo di quella italiana per non parlare di quella mondiale, si distribuisce, si disperde in 10.000, poi ci sono queste chat roulette che praticamente se vai sono tutti tipi col pisello fuori, è una cosa allucinante. Sì, ci sono anche per le applicazioni, ci sono tante chat e chattine secondarie e la gente si disperde in tanti tipi di chat diverse, con nomi diversi, con sistemi diversi. Se ce ne fossero poche, allora ci sarebbe anche troppa gente, ti dirò, tipo su Civitalk, sarebbe anche troppa la gente. Sì, sicuro sì. Lo so, ci sono altri siti che sì, io ho visto, mettendo presto, no? Ho visto che ci sono altre applicazioni CD anche, che io poi non ho installato, perché non puoi mettere a installare tutto, se riempi il tablet o il telefonino di tante cose, non hai più memoria, e ti rovini il telefonino, per cui non ha senso, anzi io tutto quello che avevo, tutto eliminato, anche dal telefonino l'ho staccato, l'applicazione mia l'ho tolta. Quando io ci parlo, sto parlando al tablet che ha una memoria e soprattutto una ricarica di batteria molto più lunga del telefonino, anche perché è grande, poi il tablet, sai, è 30 cm grande, si può immaginare, per cui vedi tutto bene, tutto proprio con chiarezza, soprattutto quando metti la mappa, eccetera, vedi tutto veramente tutto bene. A differenza, ad esempio, col telefonino non vedo le fotografie io, cognome mio, che è così o che so io, ma so solo che non vedo le fotografie, mentre invece nel tablet li vedo. Vedo molte cose di più, ecco. Sì, nemmeno io ho messo foto, perché alla fine la rete è ambigua, o meglio le persone sono ambigue. Meno foto metti, meno dati personali metti, meglio è. Anche poi vedi come va a finire anche queste ragazze poverette che si suicidavano, no? Magari col ragazzo si filmavano, no? Si facevano qualche foto sé, capisci a me? Poi col ragazzo ci si lascia, ci si bisticcia, questi mettevano video e foto su internet, quella non sopportava l'onta di essere stata, non dico svergognata, ma di essere messa così in pubblico, e certi hanno fatto gesti estremi. E quelli là che l'hanno fatto devono essere puniti pesantemente, ma pesantemente. Per non contare tutto lo stalking, queste cose, il bullismo online, tutta la cattiveria dell'uomo si è riversata in rete in tutti i suoi aspetti, sia la bontà sia la cattiveria delle persone. Perché alla fine internet non è, come dice mia zia cattiva, internet è uno schifo, no, internet è un mezzo, sono le persone che fanno schifezze, capito? Una volta si stalkerizzava, si tormentavano le persone al telefono, adesso si tormentano su Twitter, su YouTube e male varie. Purtroppo è così, internet rappresenta l'umanità, quella è la cosa brutta di internet. Sì, infatti non è prudente nemmeno mettere la fotografia eccetera eccetera, ma proprio oggi mi è arrivato sul telefonino una notifica che su WhatsApp di non mettere le foto, perché sono delle persone che riescono la fotografia e magari ad ingannare persone con la tua o la mia fotografia. Ci sono questi geni, per così dire, per non dire delinquenti del computer o del telefonino, che riescono ad appunto convincere i parenti, tu ad esempio o miei, sapendo da dove proviene e chi sia e chi non sei, che magari chiedono, ti mandano un messaggio e vedono la tua fotografia o la mia, hai dei parenti e riescono a sorgere del denaro o altre cose eccetera. Per cui proprio oggi su WhatsApp mi è arrivata questa notifica, mi è arrivata e la stavo leggendo, perché chissà, ci sono anche i delinquenti online che sono, e tanti, non a caso mi hanno arrestato, o meglio arrestate 24 persone, sono state truffate, anche conversamente portatori, non hanno mai ricevuto il materiale che avevano appunto ordinato. Sono stati i soldi e dunque sono state denunciate queste persone qua. Sono state 24 sono state truffate. Una notizia anche sul giornale, mi sembra che sia anche oggi qualche articolo sulla Nuova Sardegna, se ricordo bene, a riguardo di questo. Sì, ma vabbè, le truffe sono l'ordine del giorno, non le considero nemmeno. Però online sì, ci sono anche ricatti, cioè, ci sono ragazzi anche giovani, non solo donne, ma ragazzi giovani, molto giovani, che mandano le foto a tutti, e non solo del viso, certe volte mandano foto sì, cioè, si capisce mi. Al primo venuto, poi quello le ricatta, le fa girare per altre reti, cioè per altri siti, è un macello, non bisogna, io se avessi una figlia, possibilmente le metterei qualche sistema di controllo in modo che non invii niente a nessuno, è un pericolo, poi per le ragazze, per le donne, poi ragazze, giovani, è un pericolo, anche perché sono ingenue loro, credono troppo alle persone, alla buona fede. Non funziona così, no, non funziona così. C'è gente che è stata spinta proprio al suicidio, o per molestie, o proprio per questi ex ragazzi che ricattano le ragazze. È una cionfra, per carità, se ne leggono i piccoli, ma non solo in rete, anche al di fuori della rete, capito? Viviamo brutti tempi, allora era meglio il fascismo. Cioè lì se sgarravi, mamma mia, la polizia menava di brutto. Certo non c'era libertà di nulla, però è un controsenso di tutto. Vabbè, poi a parte che mia zia è grande, no? C'ha quasi l'età di mamma, un po' di meno, insomma è della vecchia guardia. Lei proprio detesta questi social network, Facebook. Dice, ma quando mai io devo mettere foto, video? Sono stata qui al mare, a quest'ora sono andata in bagno, a quest'ora... Ma quando mai spiattellare la propria vita pubblicamente così? Non lo so. Certe volte anche si va oltre, ben oltre la decenza, mi Giulio. Certo, lei proprio, a parte che non conoscendo nemmeno questi sistemi, li detesta a priori, capito? Io, sapendo invece come la rete, preferisco mettere meno dati possibile. Anche in WhatsApp, come vedi, ho messo il pipistrello a Cabingiosso, no? Ratta Pignara, e finisce lì. Capito, Giulio? Ok. Occhio, adesso fa. Oh, lo sai che io non ho. Oh, Giulia, non è nemmeno pranzato, non ne avevo voglia. Proprio c'ho lo stomaco un po' sotto sopra. Cioè, sono uscito alle 5:30, ho fatto una piccola spesa, mi sono pigliato un caffè, mi ha fatto acidità e mi ha rovinato lo stomaco un pochino. Non avevo voglia, ma. E tuttora mi non ne ho voglia. Solo che. Se non mangio adesso mi tocca mangiare più tardi e anche peggio. Cioè abbiamo una pizza, proprio pizza di pizzeria, non quelle finduce, quelle cose che prende mamma. Me ne mangio solo un rettangolo, un quadratino, mi la divido in quattro, me ne mangio un quarto. Guarda, di più non riesco a fare, c'ho lo stomaco sotto sopra. È come un senso di nausea e di pienezza. Certe volte mi chiedo se siano anche questi ormoni che devo prendere per bocca, no? A seguito dell'operazione, che per un'ipofisi si è scombussolato tutto, la tiroide, le surrenali, il testosterone, tutto correlato, tutto concatenato, te ne immagini? Purtroppo sì, il fisico umano purtroppo, tutti gli organi sono chiaramente messi a contatto l'uno con l'altro, per cui non c'è da meravigliarsi che l'effetto di un farmaco magari possa ripercuotersi anche su altre cose che magari non sono uguali per curarlo con l'altro organo, però allo stesso tempo possono essere, diciamo, le cosiddette reazioni collaterali, dai. Non so cosa dici io, Marco, quando uno succede così, bruciore di stomaco, io quando qualche volta, veramente che non so bruciore di stomaco, mi sono bevuto un bicchiere di latte e mi è passato subito immediatamente. Altre persone invece magari non possono bere il latte perché non sopportano le latticine, non sopportano i lattosi o tutte queste cose qua, e allora. Nemmeno quello possono prendere, se sono costretto a prendere, che so io, una pastiglia adatta per questi disturbi così, che sono disturbi che danno anche buon fastidio, se funzioni insomma come è forte dà anche fastidio veramente. E vabbè, meglio niente, meglio stare tranquillo, sereno di mente, tutto questo. Dio, ma cosa ti vuoi fare? Eia. È brutto avere intolleranze, tipo celiachia, intolleranza al latte, perché mamma mia, ti limita molto la... ti toglie anche il gusto del mangiare. Comunque il bruciore me ne ha dato un po' solo all'inizio, adesso no, non c'è il bruciore, però forse anche, sai, il caffè dolce, non devo pigliare roba dolce mai prima di mangiare, nemmeno il caffè, perché mi toglie l'appetito. Ti dicevo, per esempio, io amo il latte e tutto ciò che ne deriva, latte, latticini, yogurt, proprio lo amo. Invece dopo l'operazione ho mollato molto i dolci e il consumo di caffè, che prima era molto più... bevevo più caffè, adesso l'ho mollato, sto limitando lo zucchero, sto limitando molto i dolci, ho quasi eliminato il cioccolato, che prima era una malattia, lo sai, era quasi una forma di astinenza quando non c'avevo il cioccolato. Per fortuna l'ho mollato, perché l'eccesso di ogni cosa fa male, qualsiasi cosa, che sia da bere, da respirare, da mangiare, gli eccessi fanno sempre male. E poi vabbè, il testosterone, devo fare un'iniezione al mese, perché non è questione solo di libido e di parti basse. Il testosterone, mi ha detto l'endocrinologo, fa molto bene alla salute delle ossa, alla salute dei muscoli, al loro sviluppo, quindi è comunque indispensabile il testosterone. Poi quando passerà, diciamo, la fase più acuta anche del post operazione, che è lunga, dura mesi, se si può eliminare si eliminerà, però fino a quel momento devo assumere un po' queste cose. Il cortone acetato, che poi si trasforma in cortisolo, poi supporto per la tiroide. Poi mi volevo dare una cosa anche per rinforzare proprio la forma fisica, solo che lo devo fare tramite siringhe tipo diabeti, com'è? Quelle siringhe autoiniettori che si fanno sulla coscia, sulla pancia, quello mi secca un po' perché non amo gli aghi, però ripeto, se necessario, tanto gli aghi sono microscopici, si fa anche quel sacrificio per la salute. Sì, ma certo, quelle servono per il trombo, io ne avevo fatto una serie di 10 a casa, quando ero stato operato la prima volta, la appendicite, mi aveva prescritto. Facevo in ospedale questa puntura, così pure me l'avevano prescritto una serie di 10 punture, me l'avevano prescritto quando me l'avevano dimesso, e poi facevo io lo stesso affatto, ma non si sente niente, è bravo, non sente nemmeno, se ti ha messo sottile, poi devi pizzicare la pancia, no? Se la pizzichi nel punto dove, e poi anche che bucare sempre in un certo punto, si sforzi un pochino e non sente mai niente, no? È una puntura di mosca, niente di più, per cui no, non è così, non c'è da temere, insomma, ecco, non è così. Sì, beh, certo, una cosa è certa, i farmaci quando si usano bisogna prenderli, questo è il contratto. Si sono tornando al discorso di riprendere per un certo periodo, beh, perché per ammalarsi ci vuole poco, per guarire i tempi sono che ci sono, soprattutto quando si tratta di operazioni interne, eccetera, ci sono le ferite che devono rimarginarsi bene, perché internamente si rimarginano subito, ma poi internamente no, passa il tempo, può passare anche un anno, può passare per la rimarginazione totale, per cui avuto un amico e tu lo vedi apparentemente sembra abbastanza in forma, ma in realtà è già vecchio, ha 85 anni, infatti quando gli ho chiesto quanti anni hai, ha detto che 85, beh, 85 comincia a essere una bella età, io ci sono lui, però se tu lo vedi, sì, è un tipo longiligno, tutto quello che vogliamo, si tiene sempre abbastanza giovanile, però sono sempre 85 anni o Marco, e si sa, quando la gente sa il discorso è chiaro da capire, no? Arrivarci io 85, secondo me creperò prima, arrivarci magari anche lucido di testa, perché c'è chi purtroppo ha delle cose che invecchia male, di testa che invecchia bene, io già sono imbambito adesso, pensa come sarò, se ci arrivo mezzo all'età. Poi mi sono fatto gli occhiali da vista, perché io alla fine sono andato dall'oculista e c'avevo una miopia, un po' di miopia, perché lontano vedevo male, non vedevo bene nelle scritte, caspita, ho messo gli occhiali, adesso vedo tutto stupendamente, un bijou, e un pochino di astigmatismo c'era anche, entrambi gli occhi. E siccome il sinistro è sofferente, perché c'è non la pupilla, si chiama papilla ottica, no? Che è alla fine del nervo ottico verso l'occhio, è un po' come infiammata, quindi l'occhio sinistro è sofferente e ha detto che bisogna abituarlo a vedere bene, per cui gli occhiali erano necessari sia all'uno che all'altro occhio. E io mi ci trovo bene, non ho problemi a mettere gli occhiali. Certi ci fanno un complesso, una malattia, ne fanno gli occhiali, io anzi quasi li volevo. E quindi mi trovo veramente bene, vedo bene da lontano adesso anche per la guida, mi Giulio, quindi un bijou. Sì, beh, certo, gli occhi sono importantissimi, sono forse più importante dell'uomo, perché quando uno non vede bene è veramente brutto, quando invece sì, beh, certo, aveva una certa età, anche gli occhi si consumano, Marco, per cui no, ma siamo tutti così, no? Siamo tutti così, soprattutto dopo i 40 anni comincia il declino della vista, ma questo non ci sono preferenze, questo è per tutti, sia per gli uomini che per le donne, è uguale, non cambia niente. Purtroppo sono cose che succedono, e c'è chi sta peggio, e c'è chi ha avuto degli incidenti. Molto elegante, ma danno un tocco di eleganza, se vogliamo chiamarlo. Naturalmente ho scelto un colore sobrio, un colore scuro, non come schiacolo del calcio, Mughini che ha la montatura rosso fluo, celeste, mamma mia, no, così non mi piace un colore serio. infatti sono come un blu scuro, tra il blu e il grigio scuro, molto, ce li siamo scelti apposta, peraltro me li ha regalati mia zia, mio, che ha le montature e lenti, me le ha regalati lei, mi ha aiutato a scegliere e sono soddisfatto, dai. Perché? Mulini è favorante, ma non so come c'è con gli occhiali, ma un po' con tutto, anche con le chiavi, o lo stesso, con le gambe, con le scarpe, poi non ne parliamo, ma da lui. È un uomo estravagante, sai, è un uomo di giornalista scrittore, che loro dicono, pensano questo, io sono una persona libera e faccio quello che mi piace. Marinaio, il tortagino se lo faceva all'epoca, sai, tipo l'ancora, il disegno stilizzato dell'ancora sul bicipite, oppure il cuore trafitto, lui niente. Ma poi ho visto, vabbè, Corona, anche questo, com'è che si chiama, Coso Signorino, aspetta, DG Signorino, cosa legge, tutto con questi pasticci in faccia, ma se io fossi tornato quell'età, a casa, in quelle condizioni, nonno mi avrebbe cacciato di casa, se fossi tornato in quelle condizioni allora. Ma poi sai cos'è? Una volta chi si tatuava lo faceva per distinguersi dagli altri, per essere originale. Adesso, siccome tutti sono tatuati dalla testa ai piedi, non c'è più nemmeno quella cosa di distinguersi dagli altri, di essere originale. Adesso, se vuoi essere originale, anche essendo giovane, l'unica cosa è non tatuarsi, se proprio vuoi essere diverso dagli altri. Adesso sono come le pecore, cioè, se si tatua uno, si tatuano tutti. Se si mette la mutande in testa uno per moda, se la mettono tutti. E sono come le pecore, i giovani soprattutto. Sì, ma è così, guarda. Io, ripeto, odio le persone che si, tra virgolette, chiaramente, le odio tra virgolette, per queste persone che si fatticano il corpo con questo vuol dire tatuaggi, eccetera. Ma Marco, se devo lasciare, insomma, posso scusare il telefono, mia moglie là. Ci sentiamo domani eventualmente, così compiamo ancora quattro chiacchiere, ok? Ciao, grazie per la chiacchierata, saluta in casa, tornare, salve a tutti, vabbè, ascolto il finalino e dopo chiudo, ok? Ciao Mamma. Ciao Giulio, dai, adesso mi faccio anch'io il quarto di pizza. Poi ogni tanto mamma mi dà i saluti per tutti, saluta quelli della frequenza, un po' generale, no? A lei piacerebbe, ma poi si troverebbe tutti uomini, lei è grande, insomma. Così. E comunque estende saluti a tutti, poi già ci sentiremo prima di Natale, a voglia. Io adesso che ho ripristinato, c'erano quei baracchinetti e il ricevitore erano, pensa, lasciati allo sbando, coperti di polvere, ho tutto pulito, cambiato, c'ho il telo per coprire la radio, e quindi si ricomincia finché c'è gente, poi... Ok, di nuovo, buonasera, buon tutto, alle prossime, ciao ciao. Ok, ciao, ciao Marco.